Allora, abbiamo al telefono Vasquez, ci sei? Ci sono. Ciao. Cioè, io non ho parole, è una radio un po' scombiccherata questa, ma insomma, dimenticare che avevi una diretta, insomma, che stavi facendo? No, cioè, un lavoro importantissimo, ero totalmente assorbito nella creazione, era un momento altissimo, stavo dormendo. Che hai fatto, le ore piccole ieri? No, davvero stavo lavorando, non ho visto l'ora, cioè, veramente, è una cosa umiliante da dire, ma è andata così sul serio. Proprio, hai proprio questo fuoco dentro della radio proprio, che non... fuoco sacro. La prima volta in 3 anni. Vabbè, speriamo che sia l'ultima, anzi che non sia l'ultima, bene, abbiamo più spazio per mettere la musica, lasciamo a margine le due chiacchiere di cinema. No, sarebbe una perdita incredibile, non si può. Vabbè, senti, allora parliamo di cinematografo, vai. Che cosa è uscito in questi giorni? Allora, è uscito già da un paio di giorni, perché hanno anticipato l'uscita a mercoledì, un film molto bello, si chiama John Carter, è un film della Disney ed è cinema d'avventura proprio. La storia è quella dei libri di Eric Burroughs dei primi del Novecento, cioè la storia di questo John Carter, che è un soldato sudista, quindi nel West, che viene a un certo punto catapultato su Marte, quindi è un film di fantascienza, e su Marte trova un pianeta all'età della pietra, insomma allo stato primitivo, con bestie orrende, tribù che lottano per la supremazia, e è molto bello, è diretto da Andrew Stanton, che è il regista di alcuni dei film più belli della Pixar, tipo Nemo, Wall-E, e veramente è un film che ti dà il senso profondo di cosa sia la grande avventura, il grande respiro, grandi scenari, insomma lo consiglio moltissimo. Va bene, poi altre cose? Disegno completamente opposto, esce A Simple Life, che è un film che era affigurato bene al Festival di Venezia, la protagonista ha anche vinto il premio come migliore attrice, ed è un film veramente commovente, veramente bello, racconta la storia di un uomo e la sua donna di servizio, che sembra una trama che non interessa a nessuno, in realtà, come dice il titolo, A Simple Life è la storia di una vita semplice, ed è veramente commovente in questo senso, non è commovente perché ci sono le tragedie, è commovente per la semplicità del tutto, per il vivere, è un film veramente particolare. Ma senti, ti voglio fare una domanda che non c'entra nulla. Il nuovo Montalbano, lo direi, tutti diranno ma che dice Prince, a me piace molto. Le avventure del giovane Montalbano con Michele Riondino. Piace molto, è molto ben girato, gli attori sono tutti perfettamente posizionati dove devono essere posizionati, cioè presi proprio scrupolosamente. Lui è credibile, Riondino. Sì, lui è credibile. E lo trovo perfetto, veramente perfetto. Sì, belle storie, bei racconti, veloce. Molto quindi ben fatto. A te piace anche di più del Montalbano normale, insomma. Sì, certamente sì. No, invece io preferisco quello normale. Comunque sì, comunque molto forte pure questo. Ma del resto lì la penna di Camilleri è terrificante, insomma, è veramente perfetta. Riesce a rendere buone anche le fiction della Rai. Ho capito, però devi essere bravo a farle. Per carità, devi essere serio, però secondo me non è un caso che tutto quello che scrive lui viene fatto bene. Ho capito. Non può essere casuale. Tu l'hai visto? Sì. Ti è piaciuto? Sì, io preferisco l'altro, però comunque questo mi è piaciuto. Ben girato, adesso io non è che sia un esperto di cinematografo. No, però io solamente mi chiedo com'è possibile che proprio tutte le cose che scrive Camilleri vengono dirette bene, il resto è uno schifo. Cioè, secondo me ha una certa influenza anche la scrittura, come la pensa Camilleri o come la adatta per lo schermo. Ah, perché poi è lui che la adatta? Sì, beh, lui nasce in televisione, nasce regista televisivo, quindi comunque c'ha anche la competenza per adattare. Mi è piaciuto, sono rimasto sorpreso, me lo rivedo, perché lo fanno il giovedì, sì. Poi me lo rivedo su internet, fanno un replay, no? Sai, Rai Replay. Sì, c'è il replay da Rai. Me lo vedo, è proprio veramente ben fatto, non pensavo. Vabbè, scusa questa digressione, questo diverticolo. D'altra parte oggi è così, Sì, oggi siamo andati di male in frasca come dei matti. E di questo double che mi dici? Madonna, è veramente terribile, ma è brutto. È veramente brutto. C'è Richard Gere. Madonna, esatto, uno dei peggiori film della già pessima filmografia di Richard Gere. Cioè, Richard Gere c'ha un problema. Ah, quale? Non si sa muovere. Ma sul serio, è un attore con una deficienza incredibile, cioè non sa muoversi sul... Se tu guardi i grandi film con Richard Gere, sono tutti film fatti da registi immensi, cioè gente talmente straordinaria che è riuscita anche a fare un grande film con Richard Gere. Per il resto, tutto quello che ha fatto con registi normali, insomma, è terribile, è inguardabile. Questo The Double non fa eccezione, è una storia di spionaggio in cui lui è un vecchio agente segreto della CIA che viene richiamato in attività dalla CIA quando si scopre che una vecchia spia sovietica che lui teoricamente aveva fatto fuori non è morta. Vabbè, questa è una di quei racconti, cioè... Guarda, ne avrò visti non, 60 così. Non ti dico le scene d'azione, cioè ma 160 tagli di montaggio per far vedere che lui non si muove, ma terribile. Ma, no, io credo spero d'aver visto male, ma c'è a un certo punto lui che tira fuori un laccetto di acciaio dall'orologio. Sì, stupendo! No! Stupendo! No, scimmiotta 007! Sì, ma no, ma che vergogna! Ma che vergogna, ma dai! Lo sta vedendo qui nei trailer! È proprio l'arma preferita sua, eh! C'è proprio quella che usa sempre, giuro! Ma non ci posso credere, ma dimmi! Vabbè, parlami di qualche film cristiano, che ne so! Allora, ecco, la settimana esce un altro film importante. A me, lo dico subito, non è piaciuto, però io lo dico perché so che ci chiama. Si chiama L'arrivo di Wang. Wang è scritto con la W. Mm-hmm. È un film italiano, anzi un film romano, perché è dei fratelli Manetti, quelli che hanno fatto Piano 17, Zorro la Vampira. Insomma, sono un po' considerati gli unici che fanno cinema di serie B in Italia adesso. Secondo me sono pessimi, però insomma hanno quel tipo di fama. Questo è un film particolare, perché come non posso dirvi molto perché vi rovino, c'è una grande sorpresa nel film e ve la rovinerei se vi dicessi, però vi dico che inizia con questa ragazza che fa la traduttrice dal cinese, che viene convocata dai servizi segreti italiani, la mettono su una macchina e la portano bendata in un posto perché deve tradurre questo Wang, uno che parla cinese, non gli dicono chi è perché non può sapere nulla, la mettono in questa stanza buia con sta voce in cinese che lei deve tradurre e da quello che si dicono, cioè, lei a un certo punto dice no, io basta, io mi fermo perché qui se non so che succede non vado avanti, perché si capisce che c'è qualcosa di strano che va avanti. Non vi posso dire chi è questo, cos'è, perché vi svelerei troppo della trama. Però nonostante un'idea originale, nonostante queste cose, insomma, secondo me rimane il solito filmaccio dei Manetti. Vabbè, ma tu ce l'hai proprio con loro, poveretti. Non so, però secondo me qui confermano che non sanno scrivere, che dirigono in maniera un po' ridicola, che poi vorrebbero fare il cinema italiano degli anni 70 poliziesco. Però poi non ci riescono perché non c'è quella fisicità, capito? Cioè non c'è quel... A un certo punto lei dà una spinta a una guardia del corpo e quello si rompe una gamba per una spinta di una ragazza. Ma insomma, non c'è un lì. Ma Ennio Fantastichini però è un grande attore, sì, dai. Esatto. Infatti lui fa quello dei servizi segreti col polso duro, che conduce l'interrogatorio incazzato nero. Lui bravo. Almeno quello. E invece del grande Ti stimo fratello? Madonna che schifo. Madonna che schifo. Non promette bene. Vabbè, cioè, questo è perché tu sei uno di quei critici cinematografici che guardano solo i film, quelli che a camera ferma che disprezzano la televisione. Dai. No, guarda, questo, guarda, vi sfido a vederlo, ma veramente. No, anzi, vi sfido a vederlo fino alla fine. Cioè, se voi mi dite che l'avete visto, io vi faccio domande sul finale per sapere se siete rimasti fino alla fine. È veramente una cosa Allora, dico perché è inguardabile, con due semplici motivazioni. Uno, lui ripete ossessivamente solo il tormentone che c'ha e non c'è altro. Tutte le altre gag, che non sarebbero quelle, insomma, quelle tre che gli appartengono, che già si sono viste in televisione, sono quelle straviste, cioè c'è lo scambio di persone, una botta in testa, da troppo da mangiare i pesci muoiono, dalle chiavi della macchina al parcheggiatore che poi non è il parcheggiatore, gliela ruba, cioè le cose straviste. Vabbè, quindi una cover di un film, 200 film. No, è un film senza idee, questa è la vera definizione di questo film. Ah, ecco, vabbè, qui da dentro è arrivato un matto che mi chiede di chiederti com'è Young Adult con Charlize Theron. Questa è un'ottima domanda, lo stavo per affrontare come ultimo film, perché questo film va visto e va visto in fretta, perché... Ma l'abbiamo parlato l'altra volta. Sì, infatti. L'abbiamo accennato. Perché questo qui è un film che la Paramount Pictures distribuisce in Italia in 36 copie. 36 copie sono pochissime, come capite dal numero. A Roma starà in 3 cinema, per dire, sarà più o meno in 3 sale, e starà anche poco, ovviamente, perché hanno deciso di fare una distribuzione povera, perché evidentemente non ci credono in questo film. In realtà è molto bello, è diretto da Jason Reitman, che è il regista di Thank You for Smoking e di Up in the Air, Tra le nuvole, quel film con George Clooney. È scritto dalla grandissima Diablo Cody, che ha già scritto Juno, ha scritto Il corpo di Jennifer, insomma è una bravissima, ed è interpretata benissimo da Charlize Theron. È un film divertente, intelligente, veramente è il film della settimana che consiglio, assieme a Simple Life e John Carter. Allora, dovremmo avere il trailer. Pensa un po' tu, aspetta. Vai, andiamo col trailer. Vai, eccolo. Benvenuta all'Antonin, ha una prenotazione? No. È un cane nella borsa? No. Con un costo extra è permessa la presenza di piccoli animali. Bene, perché avrei un piccolo animale nella macchina. Come mai sei tornata a Mercury? Ma c'è la colonna sonora di Bowie. Per carità, scherzi. Anche, perché è tutto un po' sugli anni Ottanta. Oh yeah. I'm up on the 11th floor and I'm watching the cruisers below. Beh, non si capisce di che parla. Allora, racconta di lei, che è una scrittrice di romanzi per young adult, cioè per giovani adulti, che è un genere, sarebbero quelli tipo Twilight, per dire. E era, chiaramente lei è bellissima, perché è Charlize Theron, ed era la reginetta della scuola al liceo, insomma era quella, la bella della scuola di questo liceo di provincia. Poi chiaramente è cresciuta, è andata in città a lavorare e ora sta lì in città. E torna nel paesino di provincia perché è un po', è diventata un'adulta irrisolta, cioè una che comunque sta da sola e una che comunque non è mai veramente cresciuta, e torna perché il suo ragazzo dell'epoca ha un figlio e lei si è autoconvinta che lui in realtà vuole tornare con lei, quindi torna lì per riprenderselo contando sul fatto che lei era bella e quindi ce la farà comunque. E qui, diciamo che qui mi fermo, però insomma succedono un sacco di cose quando lei ritorna in questo paesino, e alla fine il bello del film è che quelli che pensi che siano le persone un po' migliori in realtà non sono tali, e lei tantomeno, cioè lei è la peggiore di tutte. Oh, la prossima settimana escono solo 3 film, quindi è inutile che vieni. Ma io riparlo di questi, per forza, perché dopo che mi sono dimenticato stavolta. Gabriele, Madonna, che schifo la prossima settimana, sto guardando adesso. Ma ce n'è un altro italiano. È Sara che parla, non sono io. Forse l'aveva capito, anche se oggi è un po' confuso. Film Labà su Castelvolturno. Sì, l'ho perso sia a Venezia che l'ho perso questa settimana che l'hanno proiettato. È destino che io non veda questo film. Vabbè. Come di cosa detto. Parla? No, perché sembrava Napoli, migrazione, camorra, quindi ma non hai visto un film Guido di Lombardi? Dico tanto. Scherziamo. Lo so, ma il destino ha giocato contro di me. Vabbè, ma gioca sempre tutto contro il tempo, le cose. Educazione criminale. Potrebbe ce l'hanno essere. Tutti con me. A passionate woman of God. Vediamo un po'. Questo è il trailer. Trailer con un trailer. Viene tu giù di me. E come si chiama? Yusuf. Benvenuto all'Italia. Ti è un quartiere dove le africane vi abitano. Bien sûr. Où ça? En prison? In the bubble. If I don't like a nigga, I live in the hood. All they come home, so where they come, they say gone, got the gun. Watch out, I'm head deep, nowhere fair. Killing my way, the nigga killing my way. Ma lo sai che pare bello? Ma avevo questo sentito poi è le successo voci, davvero questo episodio, no? È tratto da quello che è successo realmente nel 2008. Sì. I 6 immigrati durante la sparatoria, no? Può essere. No, è quello. Non l'ho visto, non sono documentato. Sono impreparato su questo film. Questo andrebbe visto, però. Dovresti prenderti un biglietto e andare al cinema. È esattamente quello che farò. Fare queste cose qua. Quello che farò, e settimana prossima potrai chiedermelo. Va bene. Vabbè, volevi raccontare altro? Oggi ho incontrato Danny DeVito. Me l'hai salutato? Sì, lui è stato il primo a dirmi: oh, ma Faster, non poteva, cioè, ti ho coperto come al solito. Ma tanto stasera viene giù all'Orion, lo sai, no? viene a ballare. No, veramente, passa all'Orion. A fare un saluto agli amici dell'Orion. Beh, ma che ci vuoi fare? Beh, com'è l'hai incontrato? È qui per promuovere un film che uscirà a giugno, cioè una cosa totalmente fuori dal tempo. Comunque, si chiama The Lorax, è un cartone animato in cui lui ha fatto il doppiaggio in inglese ma anche in italiano, cioè parla in italiano nel cartone. Ma davvero? Sì. Oggi comunque a pranzo, siamo stati a pranzo insieme, è venuto a casa mia, ha fatto le fettuccine, ha fatto un macello, credimi, si è messo lì a tirare la pasta, ma veramente tira la pasta, ha fatto le fettuccine e parlava in italiano, sì. Ripetendo solo le battute del film, che è l'unica cosa che sa. E niente, lui è completamente, cioè lui viene e viene a fare questi spettacolini, capito? Cioè non neanche risponde alle domande che fa la stampa, viene e comincia a parlare lui a fiume. E ha raccontato però un sacco di cose interessanti, in particolare siccome gli abbiamo chiesto del fatto che lui fu quello che produsse, o quantomeno che aveva convinto i produttori a fare Pulp Fiction, che è stranissimo, lui non c'entrerebbe nulla, però in realtà aveva letto la sceneggiatura delle Iene e non l'aveva potuto produrre, però gli aveva detto: il prossimo te lo faccio io. Tarantino ci ha raccontato oggi che si è presentato con solamente le storie abbozzate, alcune delle storie di Pulp Fiction abbozzate, e lui dopo che ne ha sentite tre ha detto: no, basta, va bene, lo facciamo, non andare neanche avanti, lo facciamo. È andato a parlare con uno dei produttori più importanti di Hollywood, quello che in quel momento ci aveva in sala Cliffhanger, il film con Stallone, e gli disse di no. Dice: no, guarda, sta roba non ci interessa. E lui dice che si incazzò come una iena, che montò sulla scrivania, fece un casino pazzesco e se ne andò poi da Harvey Weinstein della Miramax, che è poi quello che veramente effettivamente l'ha prodotto. Però insomma ha fatto questa cosa e dice che lui non voleva far girare Tarantino, cioè voleva parlare lui con il produttore, non far parlare Tarantino, perché Tarantino con quella parlantina veloce, con quella cosa, rimbambiva tutti e non riusciva a farsi dare i soldi sostanzialmente. Ho capito. Vabbè, noi ci salutiamo qui senza un vero perché, o volevi aggiungere dell'altro? No, non c'ho altro da aggiungere. Ah, vabbè. E allora venerdì prossimo, se ti svegli. Sicuramente, rimarrà un caso isolato e un giorno guarderemo tutto questo ridendo. Ciao, buon weekend. Grazie, ciao.